Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Fase 2, riaprono aziende e cantieri dal 4 maggio, visite anche ai familiari e sport individuali consentiti. Per i negozi aperti bisognerà aspettare il 18 maggio. Gianni Rezza, l'Istituto Superiore di Sanità, intanto invita alla cautela, i contagi sono ancora attivi e mancano le indicazioni per la app e l'uso delle mascherine. Sì, intanto ai funerali con 15 persone, ma non ancora alle messe, i vescovi contro il governo, così si viola la libertà di culto. Giornali e riviste pirati, la Guardia di Finanza e la Procura di Bari contro la diffusione su Telegram, danni per 250 milioni. Formula 1, la ripartenza della stagione slitta al 3 luglio col Gran Premio d'Austria, ma senza pubblico. Eccoci qua, buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24, tutte le notizie. Cominciamo con l'annuncio di ieri sera del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla cosiddetta fase 2 che scatterà come previsto a partire dal 4 maggio, già da oggi però via libera ai cantieri pubblici e alle aziende che sono votate all'export, dal 4 poi ci sarà una maggiore libertà di movimento per i cittadini e la ripresa delle attività produttive, anche se per i negozi bisognerà aspettare ancora il 18. Intanto dalle regioni arrivano altre richieste particolari, sentiamo. Un decreto che provoca polemiche sulla fase 2. Il 4 maggio non sarà un libera tutti, ha spiegato il premier Giuseppe Conte, ma la cautela per molti è troppa. Così all'interno della maggioranza si leva la critica della ministra Teresa Bellanova di Italia Viva. Si poteva e si doveva osare di più. E anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, chiede chiarimenti. Come aiuteremo le famiglie in cui i genitori potranno tornare a lavorare e dove ci sono bambini piccoli? Sulle mascherine, come e con che modalità e dove dovranno essere obbligatori? Soprattutto i parchi, apriteli e poi li controllate, non è per niente semplice. E sempre dalla Lombardia il governatore Attilio Fontana vuole garanzie, così su Sky. Ho parlato con tanti esperti, con tanti scienziati, quali mi dicono che anche all'aperto debba rimanere l'uso della mascherina. Anche l'opposizione critica la fase 2, è una fase 1 bis, dice Maria Stella Gelmini di Forza Italia. Proteste poi dalla CEI per lo stop alle funzioni religiose. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E dal punto di vista dell'andamento epidemiologico dell'emergenza di coronavirus, l'esperto di malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, Gianni Rezza, dai microfoni di Radio 24, invita ancora alla cautela, alla prudenza, perché i dati indicano che ancora il contagio è in atto. I numeri del contagio in Italia migliorano, solo 2.300 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, un forte calo dei decessi, 260 rispetto ai 4-500 al giorno delle ultime settimane, e sempre meno ricoveri negli ospedali, solo 2.000 in terapia intensiva, la metà rispetto a inizio aprile. Non siamo però a contagi zero nonostante il lockdown e gli esperti invitano allora alla prudenza sulla fase 2. Il direttore malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità Giovanni Rezza questa mattina a Radio 24. No, io sono preoccupato, è chiaro, questo virus continuerà a circolare. Come si rilassa un po' la situazione, comunque se ci sarà un rischio maggiore rispetto a un lockdown completo. Il rischio che da qualche parte ricomincia a circolare più velocemente, c'è tutto. Nel weekend le forze dell'ordine hanno controllato 484.000 persone e 17.000 sono state multate. Il Ministero della Salute ha intanto attivato un nuovo numero verde di supporto psicologico, 800-833-833. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E invece uno dei settori che è stato più in difficoltà fin qua e che ancora dovrà aspettare prima di poter ripartire è quello legato al turismo. A parte la data del 1 giugno per bar e ristoranti, il resto del settore è ancora senza indicazioni. Ancora nulla di certo né sul fronte dei provvedimenti né sulle regole per riprendere le attività. Per il settore turismo, che rappresenta il 13% del PIL italiano, le prossime settimane sono un'incognita. Il governo pensa a un bonus vacanze da 500 euro per le famiglie con reddito medio-basso da inserire nel decreto aprile e alla detrazione delle spese nel caso di soggiorni di almeno 3 notti, oltre al lancio della campagna Viaggio in Italia. Finalmente il governo ha iniziato a parlare di turismo, ma non basta, ci spiega Franco Gattinoni, vicepresidente Federazione Turismo, tra i promotori del manifesto per il turismo italiano. Oggi sono in piedi le aziende e quindi quello che noi abbiamo chiesto è, a parte del proseguire con una cassa integrazione in deroga, per questo lo diamo per scontato, dei fondi a fondo perduto, perché solo nel turismo abbiamo una situazione veramente disastrosa. Gli operatori chiedono meno restrizioni su stabilimenti, voli, ristoranti e così via per partire a luglio e salvare un minimo la stagione. Una decisione si avrà solo nei prossimi giorni. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per i ristoranti una delle attività consentite sarà quella della vendita da asporto a partire dal 4 di maggio, almeno una novità positiva per un settore che, come sentiremo tra poco nelle parole del presidente della FIPE Stoppani, rischia fino a 50.000 aziende in fallimento. È stato invece uno degli aspetti più dolorosi fino ad oggi il fatto di non poter nemmeno celebrare i funerali delle vittime. Dal 4 di maggio sarà invece possibile, anche se in forma limitata, no, invece ancora alle messe. Così si viola la libertà di culto. I vescovi italiani respingono al mittente le disposizioni del governo per la fase 2. Dal 4 maggio si potranno celebrare i funerali, ma solo con la presenza dei familiari del defunto, massimo 15 persone. Per le messe, ha spiegato Conte, bisognerà attendere almeno al 25 maggio, perché secondo il Comitato Tecnico Scientifico ci sono criticità ineliminabili. La Conferenza Episcopale nei giorni scorsi aveva presentato all'esecutivo le sue proposte per ripartire. Ora, fa sapere la CEI con una nota, i vescovi non possono accettare di vedere compromesso l'esercizio della libertà di culto, perché dovrebbe essere chiaro a tutti che l'impegno al servizio verso i poveri, così significativo in questa emergenza, nasce da una fede che deve potersi nutrire alle sue sorgenti. In tarda serata Palazzo Chigi fa sapere di aver preso atto delle comunicazioni della CEI, annunciando che nei prossimi giorni ci saranno dei protocolli per la ripresa delle messe. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torniamo ancora a parlare delle misure di sostegno per le attività economiche. Bene, oggi Banca Italia esprime alcune criticità sul modello dei prestiti alle aziende. Vista la gravità della crisi, c'è il rischio che oltre il 10% delle imprese non possa restituire i prestiti chiesti con la garanzia dello Stato e pertanto serviranno aiuti pubblici. A lanciare l'allarme sul decreto liquidità è la Banca d'Italia. Una parte delle perdite subite dalle imprese non sarà recuperabile, avverte la Banca Centrale in audizione alla Camera, e non tutti i debiti accesi saranno immediatamente ripagati al termine dell'emergenza sanitaria e per questo, spiega, compatibilmente con le condizioni generali dei conti pubblici alla concessione di garanzie si affiancheranno trasferimenti diretti alle imprese da parte dello Stato. Il governo intanto è al lavoro sul nuovo decreto con gli aiuti a famiglie, imprese e lavoratori, provvedimento che sarà varato entro la fine del mese o l'inizio di maggio. Sul tavolo ci sono il blocco del licenziamento per altri 2 mesi, l'aumento del bonus per gli autonomi fino a 800 euro ma con redistribuzione in base al reddito e per le famiglie previsto il rinnovo di congedi speciali e bonus babysitter fino a settembre. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E per quanto riguarda proprio la fase 2 c'è da segnalare anche un'Europa che procede in ordine sparso, perché si va da chi ha già iniziato come i paesi del nord Europa a chi invece ha annunciato proprio in queste ore un mantenimento del lockdown come la Gran Bretagna. Torna al lavoro il premier britannico Boris Johnson dopo i drammatici giorni del ricovero in ospedale e dopo 2 settimane di convalescenza. The risk of a second spike, the risk of losing control. Parlando sull'uscio di Downing Street, Johnson ha lanciato messaggi di speranza, ma anche un invito alla prudenza. Stiamo avviando l'inversione di tendenza, non è il momento di rilassare le misure di confinamento, il rischio di una seconda ondata pandemica è troppo alto. Johnson ha lasciato intravedere la prossima fine della fase 1 e ha annunciato nuove decisioni nei prossimi giorni. Questo Questo mentre in Germania è obbligatorio da oggi in tutti i Länder l'uso delle mascherine. Unica eccezione lo Schleswig-Holstein e Land più a nord del paese, al confine con la Danimarca. Le modalità precise di uso delle mascherine variano da Land a Land, ma sostanzialmente sono sempre obbligatorie nei negozi e sul trasporto pubblico. La Svizzera ha iniziato ad allentare le restrizioni per combattere il coronavirus dopo 6 settimane di chiusura. Da oggi riaprono parrucchieri, estetisti, negozi di bricolage, vivai e fiorai, mentre studi medici e fisioterapisti potranno ricominciare l'attività su appuntamento. In Spagna è partito un test su 36.000 famiglie, campione statistico necessario per conoscere la reale diffusione del coronavirus e decidere di conseguenza le misure di riapertura. Domani, infine, il Parlamento francese vota il piano di uscita dal confinamento preparato dal governo. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora con la cronaca cambiamo argomento, ci spostiamo a Genova, perché oggi è un giorno da segnalare sul calendario, perché viene issata anche l'ultima campata del nuovo viadotto su Polcevera. Tra meno di 24 ore il nuovo ponte di Genova sarà una linea unica lunga 1067 metri a scavalcare il torrente Polcevera e un pezzo di città. Il vuoto ancora aperto tra le pile 11 e 12 si riempirà piano piano con il sollevamento dell'ultima trave, la 19esima. Le operazioni preliminari sono iniziate, domattina il varo in quota sarà completato e così il viadotto, dalle forme di una nave, espressione di uno stile essenziale. Dal primo getto le fondamenta sono trascorsi 310 giorni, per vedere circolare le prime auto dovranno passarne ancora il tempo necessario per allestire, asfaltare e collaudare. L'inaugurazione del ponte non è stata fissata, si parla di una data tra il 10 e il 20 luglio e neppure è stato ancora deciso come chiamarlo. Il ballottaggio al momento è tra due genovesi illustri, Colombo e Paganini. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. Ancora la cronaca, migliaia di riviste, giornali e libri sarebbero stati illecitamente diffusi attraverso almeno 17 canali Telegram e l'ipotesi della procura di Bari, che ha disposto un sequestro preventivo d'urgenza in corso di esecuzione da parte della Guardia di Finanza per i reati di riciclaggio, ricettazione, accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico, ma anche furto e violazione della legge sul diritto d'autore. I danni stimati per il settore dell'editoria sono oltre 250 milioni di euro l'anno. E ancora, per quanto riguarda le conseguenze del coronavirus a livello globale, la Formula 1 annuncia lo slittamento della partenza della stagione al 5 luglio. Nei giorni dell'incertezza più oscurantista, degli ossessivi vediamo, vedremo, di cui è punteggiato ogni discorso, siamo sicuri che a qualcuno verrebbe voglia di abbracciare Cheesy Carey, baffutissimo boss di Liberty, la società americana che gestisce il circo della Formula 1. Mentre Cristiano Ronaldo e Immobile staranno cercando un parco pubblico nel quale allenarsi insieme ai podisti della domenica, Carey conficca con decisione la prima bandierina nel calendario. Nel weekend del 5 luglio si correrà in Austria, a Zeltweg, dopo la cancellazione appena avvenuta del Gran Premio di Francia. Da lì in poi si correranno tutte le altre corse europee che restano in programma nei mesi estivi e fino a settembre, Monza compresa. Poi in autunno Asia e Americhe per finire nel Golfo Persico in Bahrain a dicembre, avendo disputato 15-18 gare. Quindi il campionato finirà presumibilmente la terza domenica di dicembre. Si correrà in Stati Uniti e Messico, resta da decifrare la sorte di Vietnam, Cina e Spagna. Di certo le prime corse saranno vietate al pubblico, ma speriamo di avere i tifosi nel prosieguo della stagione, dice Carey con una spruzzata forse eccessiva di ottimismo. Attendiamo a breve la frenata atterrita del ministro Spadafora. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:13, facciamo una piccola pausa, Effetto Giorno torna tra poco con tutte le altre notizie. Ripartiremo da bar e ristoranti, l'attesa per la ripartenza si prolunga perché rispetto alle previsioni bisogna arrivare fino al 1° di giugno, una situazione difficile per bar e ristoranti, attenuata forse dalla previsione di poter vendere da asporto già a partire dalla prossima settimana. Poi parleremo anche di scuola, la grande assente dal discorso di ieri sera del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che fine hanno fatto gli 0-19 anni, ragazzi, insomma non c'è traccia dal discorso di Conte. Vi parleremo di una proposta concreta che arriva da un sindaco che ha una data, una modalità organizzativa, insomma qualcosa che potrebbe funzionare e che vi racconteremo tra poco. 349-238-6666 per i vostri messaggi, ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Tra poco proseguiamo Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Fase 2, riaprono aziende e cantieri dal 4 maggio, visite ai familiari e sport individuali consentiti, negozi aperti ma dal 18 maggio. Dovranno aspettare invece fino al 1 giugno bar e ristoranti, nessuna indicazione per il turismo. A effetto giorno il presidente della FIPE Stoppani, quasi 50.000 aziende rischiano il fallimento. Giornali e riviste piratati, la Guardia di Finanza e la Procura di Bari contro la diffusione su Telegram, danni per 250 milioni di euro. Formula 1, fissata la data per la partenza della stagione, sarà il 3 luglio col Gran Premio d'Austria, ma senza pubblico. Tredici e 17 minuti, ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, e con noi Lino Enrico Stoppani, presidente della FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Buongiorno. Buongiorno anche a lei e ai vostri radioascoltatori. Allora Stoppani, nelle anticipazioni, quello che era filtrato alla vigilia dell'appuntamento di ieri di Conte, per bar e ristoranti veniva indicata una data un po' più anticipata, il 18 maggio insomma, invece ci sono altre due ulteriori settimane di attesa, compensate però in parte, almeno se abbiamo capito bene, dal fatto di poter iniziare delle attività di asporto. Voi avete subito manifestato la vostra preoccupazione per decine di migliaia di aziende che rischiano il fallimento, anche perché, e vorrei partire da qua Stoppani, fino ad ora il ristoro economico giunto è stato insufficiente. Fino ad ora chi ha ricevuto che cosa? Beh, lei mi sta facendo tutta una serie di considerazioni per cui cerco di essere esaustivo. Innanzitutto l'asporto certamente è una forma di attenzione per il settore, ma è tutto da inventare, comunque è un'attività da una parte marginale e dall'altra parte ovviamente l'attività di ristorazione è ben altra cosa, che vede evidentemente la consumazione e la somministrazione di pasti all'interno dei locali, anche per quello che sono gli aspetti di aggregazione e di socialità. Noi su questo provvedimento di ieri di Conte abbiamo una posizione di critica, di perplessità, di grande preoccupazione che dobbiamo esternare, perché è il sentimento di disperazione che tocca gli imprenditori del settore, perché la politica, se da una parte ha il dovere di prendere le decisioni anche contro quelli che sono gli interessi dei pubblici esercizi e della ristorazione, ma dall'altra parte ha il dovere anche di dare delle prospettive e delle sicurezze. Ieri ho sentito uno slittamento delle date della ripartenza, che ci può anche stare, ma non ho avuto la stessa chiarezza nelle indicazioni circa quelle che sono le contropartite ai danni economici delle imprese, e lo considero anche un provvedimento in contraddizione, perché da settimane si parla di protocolli con una task force al riguardo organizzata, sì, con aspetti che interessano, aspetti economici, organizzativi, di responsabilità, ed erano riflessioni e anticipazioni che davano delle prospettive che non erano quelle del 1 giugno, anzi ritenevamo già lungo il 18 di maggio. Appunto, la responsabilità con la quale FIPE ha promosso il suo protocollo, speravamo che potesse anticipare i tempi, entrare in vigore prima. Però Stoppani, ecco, lei stesso ha detto, no? Ha detto non è tanto lo slittamento, che già di per sé per voi naturalmente è un grosso problema, ma questo unito al fatto che le misure a sostegno economico, io la prima domanda che le avevo rivolta era proprio questa, sono state fin qua insufficienti. Io infatti torno a chiederle, fino ad oggi, per spiegarlo agli ascoltatori, per far capire quanto queste piccole attività con il titolare o alcuni dipendenti, un dipendente, due dipendenti, ma anche diversi dipendenti se parliamo di ristoranti più grossi, quanto hanno ricevuto i conduttori di queste attività, in termini di bonus per autonomi, eccetera, eccetera, sconti sugli affitti, se ne è sentito di ogni colore, e anche per quanto riguarda i dipendenti per la cassa integrazione, perché io so personalmente di persone che non hanno ancora ricevuto una lira. Beh, lei mi sta chiedendo cosa abbiamo ricevuto, e di fatto oggi abbiamo ricevuto tre cose. Primo, le protezioni sociali per 9 settimane che stiamo evidentemente chiedendo di estendere per tutto il tempo delle emergenze. Abbiamo ottenuto i 600 euro con le difficoltà di poterli avere, però sono stati evidentemente stanziati e prima o dopo arriveranno. Uh-huh. Poi invece ci manca il 60% di un credito d'imposta sull'affitto di marzo, che è ovviamente una cosa certamente positiva, ma che evidentemente anche questa è limitata. Noi da tempo stiamo chiedendo interventi forti sui temi della liquidità, perché si riesca a trasformare quella che è la rete della garanzia che sta dietro il decreto liquidità in crediti veri, immediati e veloci a favore delle imprese, superando quelli che sono i vincoli e le procedure che oggi sono assolutamente penalizzati dal punto di vista della rapidità e dell'efficacia dell'intervento. Sul fronte fiscale stiamo chiedendo congrue moratorie fiscali per evitare la massi scadenza di giugno, che è ingestibile con l'attuale previsione di pagamento in 5 rate mensili. Sì. Stiamo chiedendo la neutralizzazione per il 2020 degli ISA, stiamo chiedendo la proroga all'entrata della lotteria degli scontrini, stiamo chiedendo maggiore agilità e più elevata soglia per le compensazioni fiscali. Insomma, un lungo elenco di richieste, giustamente. Soprattutto, me lo faccia dire, stiamo chiedendo il ristoro delle cadute di fatturato e di danni subiti con indennizi e contributi a fondo perduto parametrati alle perdite sul fatturato 2019 per chi ha chiuso e è stato costretto a farlo, oltre a dei interventi sulle locazioni, estendendo, allargando la platea, la tipologia e la categoria catastale ammesse a queste agevolazioni. Stoppani, volendo invece fare un passo, diciamo, costruttivo, nella speranza magari che questa data del 1 giugno possa essere anticipata, ritoccata, lo speriamo noi come utenti, insomma, no? Ma lo sperate naturalmente anche voi per il reddito che derivate dalle vostre attività. È stato fatto un protocollo, lei diceva, tanto che pensavamo, un protocollo di sicurezza per la gestione dei bar e ristoranti, no? Che pensavamo che le task force ne tenessero conto e la data fosse anticipata al 18 di maggio. Questo protocollo è attuabile? Come funziona? Che cosa prevede? Beh, il protocollo evidentemente prevede un nuovo modo di fare il nostro mestiere in termini di accessi in azienda, in termini di modalità di somministrazione, in termini di sanificazione degli ambienti, di pulizia, di protezione con mascherine e guanti dei nostri operatori, cioè tutta una serie di attenzioni igienico-sanitarie che vanno anche in direzione non solo di salvaguardare la salute nostra, dei nostri dipendenti, dei nostri clienti, ma anche per trasferire sicurezza ai nostri avventori, perché se non saremo in grado di dare le garanzie e le sicurezze, questi non mi vengono nelle nostre attività, per cui è anche nostro interesse cercare, certo, di farlo correttamente, e speravamo, perché poi non l'abbiamo fatto da soli, noi facciamo un altro mestiere, abbiamo chiesto assistenza ad un virologo e abbiamo chiesto assistenza ad un ingegnere tecnologo alimentare oltre a un usavorista, perché ci sono anche gli aspetti che riguardano i rapporti di lavoro. Per cui l'abbiamo articolato e definito per bar, per ristoranti, per chi fa banketing e le altre attività di pubblico esercizio, affidato evidentemente a chi ha poi potere di decidere, ratificarlo, certo, di farlo proprio. E stamattina proprio in Regione Lombardia c'è stata una riflessione per farlo anche proprio come Regione Lombardia, ma ripeto, i protocolli servono, insomma, per aprire presto in sicurezza, sapendo che per un periodo di tempo si dovrà convivere con questo virus, con quelli che sono i drammi che ha procurato, che bisogna cercare di evitare, insomma, si possono anche evitare senza distruggere le imprese. Assolutamente, speriamo che sia così al più presto. Intanto grazie a Lino Stoppani per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi e buona giornata. Saremo a vedere. Intanto doveva essere uno dei pilastri della fase 2, ma ieri sera Conte non ne ha fatto praticamente menzione. Credo che proprio non sia stata citata. Parliamo della app per il contact tracing, che quanto si apprende, non da quello che ha detto ieri Conte, ripeto, perché non ne ha parlato, dovrebbe essere operativa forse non prima di giugno. Anche sulla famosa app Immuni, da usare sullo smartphone per essere avvisati se si è avuto un contatto ravvicinato con una persona risultata poi positiva al coronavirus, il governo deve prendere decisioni e rispondere a molte domande. Pare, ma non c'è ancora ufficialità, che si adotteranno le tecnologie messe a disposizione da Apple e Google. La scelta attualmente è più logica perché più efficace e a prova di privacy, perché i dati rimarranno sullo smartphone e quel poco che girerà in rete sarà in forma anonima e con un livello di protezione tale da rendere impossibile risalire all'identità del proprietario del telefono. I tempi di sviluppo di Apple e Google non permettono però di avere un'app funzionante prima della metà di maggio. C'è poi da decidere come fare affinché l'uso sia diffuso. C'è chi ipotizza che se almeno il 60% della popolazione non la installerà, sarà poco efficace. Altro elemento fondamentale riguarda la capacità del sistema sanitario di effettuare un numero maggiore di tamponi, senza i quali l'app rimarrà muta. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Allora, devo dire che al di là della prudenza che è stata criticata, delle decisioni adottate ieri sera e annunciate ieri sera da Conte, di cui abbiamo già reso conto anche di alcune polemiche che ci sono già in atto, devo dire che assente è stata anche una comunicazione su alcuni aspetti, dalla app all'utilizzo di tamponi, test sierologici, tutte tematiche, tutti strumenti che dovevano servire per impostare la fase 2, ma che ieri sono state assente dal discorso di Conte, così come assente è stata la scuola, completamente assente, è stata citata da Conte solo dopo una domanda e praticamente la risposta è stata abbastanza elusiva, ha citato solo il fatto che l'esame di maturità verrà fatto in presenza. Ma che succede di tutta la fascia 0-6 anni, 0-10 anni, 0-12 fino a tutti i liceali? Ne parliamo con il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale. Buongiorno. Buongiorno a voi. Che ha il merito in questo dibattito che va avanti da qualche giorno di aver avanzato una proposta, insomma una proposta concreta con tanto di data, fascia d'età individuata, perché si possono fare delle scelte. La Germania partirà dalle classi più alte perché sono i ragazzi più responsabili, in Francia si parla di partire invece da asili ed elementari. Lei ha fatto questa proposta, le chiedo intanto se qualcuno l'ha contattata, se è riuscito a parlare con la task force, con un ministro, qualcuno, per far arrivare il senso di questa proposta, non perché sia migliore di altre, però perché ha il merito di essere molto concreta. No, io faccio parte della cabina di regia, quella che ha istituito il governo come presidente dell'Unione delle Province Italiane, e ho avuto l'opportunità di avanzare quella proposta anche in quella sede, nella quale siamo pochissime persone, tre ministri e 9 amministratori locali. Però task force si sono un po' perse di vista, ce ne sono talmente tante che ci siamo distratti un attimo. Quella degli enti, la cabina di regia con gli enti locali. Niente, regioni, perché poi c'è quella comuni. Di Colau che ha fatto il suo lavoro, ma non esatto. Sulla scuola, c'è quella sull'Azzolina che ieri ha citato Conte, che però non si sa quando. Quella si dovrebbe occupare di settembre, però settembre. Io la domanda che pongo, sì, e sulla quale ho fatto questa proposta, ho detto ripartiamo dal 28 maggio, che è la giornata mondiale del gioco, del diritto al gioco, con piccoli gruppi di bambini, con tutte le cautele e che è necessario avere in questi casi. Ma le domande che pongo io sono due. La prima è se pensiamo veramente di poter tenere isolata l'infanzia fino a settembre. Perché noi attualmente abbiamo bambini o anche adolescenti completamente rinchiusi in casa da 50 giorni, e se possiamo pensare di tenerli chiusi fino a settembre e con quali effetti su di loro, perché i pediatri con cui parlo mi stanno dicendo che si vedono proliferare stati d'ansia e tante altre problematiche, soprattutto in bambini che vivono in situazioni familiari complicate. E l'altra domanda è se un po' ipocritamente non ci accorgiamo che la soluzione è che se ne occupino le donne, fondamentalmente, di badare i figli a casa, a scuola. Nella pieno stile della tradizione familiare italiana, che però non può essere riprodotta. Siamo adesso nel 2020, non nel 1960, e quindi, ripeto, se parliamo solo di congedi parentali, sappiamo che in questo paese in larghissima parte i congedi parentali vengono utilizzati dalle donne, però questo mi sembra inaccettabile. Giustissimo, no, De Pascale? Queste sono le domande che lei ha posto anche in sede istituzionale. Però poi lei ha avanzato anche una proposta, a ripartire il 28 maggio in occasione di questa giornata, ma in che modalità? Perché mi sembra che proposte concrete comincino ad essercene, c'è quella del Veneto che segue il modello nord europeo, per cui i bambini in piccoli gruppi, sempre gli stessi, che si cambiano le scarpe, l'idea è quella. Eccetera. E lei L'idea è esattamente quella, cioè partire con l'outdoor education, che è una, diciamo, passare dall'homeschooling all'outdoor education già per molti bambini sarebbe un passo in avanti molto significativo, piccoli gruppi in maniera tale che si tenga monitorato, diciamo, il gruppo di famiglie coinvolte, priorità a chi, diciamo, quelle famiglie che hanno, lavorano entrambi, i genitori che hanno difficoltà in questo momento appunto nella custodia dei figli, e attenzione ovviamente anche ai lavoratori e alle lavoratrici di questi servizi, quindi applicare ai lavoratori dei servizi educativi gli stessi principi che si applicano alla sanità, quindi test ripetuti, attenzione, dispositivi di protezione individuale. Io dico passare dalla paura alla prudenza, che sarebbe già un passo avanti. Sarebbe già qualche cosa. De Pascale, torniamo a sentirci tra qualche giorno, speriamo che questa proposta arrivi dove deve arrivare. Grazie intanto. Grazie mille, buon lavoro. Insomma, le proposte ci sono e hanno il merito come questa di essere molto concrete e di rispondere a diversi bisogni. Poi vedremo se sono compatibili con le valutazioni scientifiche, epidemiologiche e quant'altro, ma anche organizzative. Facciamo uno sforzo, cerchiamo di avere un po' di coraggio, perché altrimenti, come dice il sindaco, rimaniamo nella paura. Invece dobbiamo passare alla prudenza costruttiva. 13:31, un piccolo break, torniamo tra un attimo. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Fase 2, riaprono aziende e cantieri. Dal 4 maggio visite ai familiari, sport individuali consentiti, negozi aperti dal 18, per bar e ristoranti funzionerà l'asport fino al 1 giugno. Sì alle cerimonie funebri intanto, ma limitate a 15 persone, non ancora alle messe. I vescovi contro il governo, si viola la libertà di culto. Formula 1, fissata la data per la ripartenza della stagione, sarà il 3 luglio col Gran Premio d'Austria, ma senza pubblico. Il punto di Alberto Orioli. Nel giorno in cui tutti si interrogano come sarà questa fase 2, che non sarà un liberi tutti, arrivano annunci importanti dalla Banca d'Italia nel corso dell'audizione alla Camera sul decreto imprese. Nella sostanza, la Banca d'Italia lancia l'idea della necessità di stanziare aiuti a fondo perduto per le imprese, perché alla lunga sarà la strategia più conveniente anche da un punto di vista della finanza pubblica. Può sembrare strano che siano da preferire aiuti puri a prestiti da restituire, ma la Banca d'Italia spiega bene il perché. Il vero rischio dunque è che non tutti i 450 miliardi di euro di prestiti coperti da garanzie pubbliche vengano alla fine restituiti. Se si considerano i dati dell'anno scorso, potrebbe essere a rischio il 10% di quella somma, quindi 45 miliardi, che alla fine significa sofferenze per le banche ma anche perdite per lo Stato. Quest'anno della pandemia però non sarà come il 2019, sarà molto peggio e quindi il rischio sarà molto più grande. È per questo che forme di sussidio diretto a compensazione dei danni al fatturato e delle spese operative per la ripartenza alla fine sono preferibili. Basta che non diventino preda delle complicazioni della burocrazia e soprattutto terreno di caccia degli eterni furbetti che il Covid-19 non ha certo eliminato.